Se tu sei bravo a fare freestyle, allora non sai chi è che lo è davvero. Preparati al mio colpo di banzai, dammi rispetto se poi lo vuoi indietro. Su di te ho solo da dire che non sei capace di fare rap. Ti mancano proprio le basi, non ti offendere. L'incoerenza e l'ignoranza non la si può difendere. E coglioni, fatti una domanda: se in questa recita sei solo una fottuta comparsa. Allora, senza rigiri di parole. Senti, inizialmente, nonostante fossi un ottuso del cazzo, non volevo dirti niente. Volevo lasciarti annegare nella stessa merda che ti sei cercato. Però poi hai esagerato. Allacciati le cinture, stronzo. Da quando su di te ho fatto click, mi vergogno di avere tra i correlati la tua playlist. E fai pena, potrei continuare a ripeterlo. Dubbi su di te come il fatto che sei etero. Bevi dal mio etere, il mio flow pronto a mietere. Un villano senza regole, il mio flow come l'Everest. Se ci arrivi sei stremato pagliaccio. Io sono un paret calibro 50 tu un Dragunov. Sei come se pisciassi fuori dal mio water. Fuori luogo, fuori tempo, a ciò che dici sta attento. Occhio a puntare negli occhi sbagliati il tuo laser. Sei succulento come un bimbo in un convento. Pensavo di mangiarti, di ingoiarti, ma mi sono detto occhio che con lui ingrassi. La percentuale del lipido è più del 90%. Ti rendi conto ora contro chi ti stai mettendo? Bam bam, questa è la mia kill streak. Non ho paura di chi parla, parla come fai te. Omicidio perfetto, te li Dexter. Tu incapace, capisci il concetto, fake rapper. Ti accompagno per mano se vuoi, oppure passo a prenderti, puoi fidarti di noi. Ci beviamo insieme un bicchiere di Jägermeister. Vengo io e Ratzinger, benvenuto a Mauthausen. Io sono Ramses, tu l'omino Michelin. Io ci vo pesante, ti suicidi, non reggi lo stress. Vuoi competizione, non ho pena per nessuno. Fai la fine di chi gridava lupo al lupo. E aiuto, fermatemi, ho fiuto, sotterratemi. Fai il brutto e arrestatemi, e se resuscita avvisatemi. Le senti queste skill, basta seghe vinf. Tu la vittima e io Jeff the Killer. Sei sicuro che mi reggi, non bastano i commenti. Non hai la mente grassa, hai solo doppi menti. Sei privo di argomenti, non competi incompetenti. Mi dai del tredicenne ma ho più di 18 anni. Prima di parlare informati ormai è tardi. Vuoi dirmi come scrivere i miei testi? La mia voce, beh, so che la vorresti. Chiamate dei cazzo di pompieri presto, perché do fuoco al suo corpo e poi ci arrostisco i marshmallow. Ne è abbastanza if. Pensavi che stavo zitto, ah coglione. E invece no, te l'ho rappata anche con il raffreddore e il naso chiuso. Fai velocity upgrade, ah. Se non rompevi le palle e ti facevi i cazzi tuoi, non succedeva questo. Ora l'hai prese. Sei a terra ma non ho finito, stronzo. Eccomi, sempre in piedi, terzo round. Tu ancora a terra, anzi sei underground. Se quello è extra beat, io non sono Six e tu non sei più quello di Mephist. La cosa più bella, Vin, è che la prima volta che lessi uno dei tuoi commenti, pensavo che tu volessi aizzarmi contro degli utenti e che tu fossi analfabeta. E bla bla, parla con questo, schifa. Mi rimangono le ultime righe, cos'è che posso dire? Dimmi chi è ora che ride, sei pronto a farti seppellire. Sei un fallito, un coglione, un ritardato senza rispetto. Ma questo l'ho già detto. Ti auguro il peggio del peggio, bastardo. Che tu rifletta per bene dopo questo pestaggio. Sappi che un dissing è un'offesa al personaggio. E io mi faccio schifo che mi sono già abbassato a tanto.